Io sono Gianni Torboli, Giovanni, ma mi conoscono tutti come Gianni. Ho fatto vela, nel mio sport sono riuscito a fare tutto, campionati europei, mondiali, ho fatto due Coppe America, ho fatto le Olimpiadi nel 96 ad Atlanta, ho vinto 15 campionati italiani con 15 barche diverse, ho vinto 6 giri d'Italia e ho fatto tutte le regate che ci sono al mondo, ho partecipato, tranne a una, che era la Sydney Hobart, che è una regata piuttosto lontano, però è una regata molto molto molto impegnativa, in cui sono andato avanti con l'età, non era più una cosa da persone un po' anziane, ma era una cosa per giovani forti e robusti. Robusto sono anch'io, però con l'età sai che la forza un po' si perde. Qui siamo alla Fraglia della Vela, non è la mia seconda casa ma è la prima, perché quando esco di casa vengo qua, dove sono cresciuto da piccolo, ho imparato prima a nuotare e poi ad andare in barca. Mio papà andava in barca, quindi sono stato un po' facilitato perché già aveva la passione papà, quindi mi ha tirato in barca e quindi sono andato avanti. Poi ho cominciato a capirci e lì ho cominciato a fare le regate, e prima come tutti i bambini piccole, poi sempre più grandi, poi qualcuno di bravi ha capito che ci capivo, mi ha portato con lui e insomma sono diventato uno dei più forti, insomma, ecco. Questa è la Fraglia, come vedete, a parte la costruzione di Maroni, lo stesso architetto che ha fatto la spiaggia degli Olivi, ha fatto l'Hotel Sole, ha fatto la centrale. È un circolo velico dove bisogna essere soci, si paga una piccola quota e si comincia, chi comincia oppure i soci che hanno la barca. Curioso è il battesimo del socio. Allora qui Giancarlo Maroni aveva fatto un angolo di questo tipo. La tradizione prevede che c'è il battesimo del socio. Quando viene un socio nuovo dovrebbe fare una donazione mettendo una piccola monetina qui dentro. Oh, ci sono le monetine. Bere un goccio d'acqua della fontana che è della vecchia fonte, mettere la testa qui dentro, tenere in mano i corni girato di schiena e il presidente Leggera gli dà un piccolo calcio nel sedere. Ecco, questo è il battesimo del socio, che si fa ormai raramente perché queste tradizioni un po' si vanno perdendo. Quindi ti faccio vedere la barca con cui partono i ragazzi. Quelle piccole che cominciano a fare vela. Io ho cominciato 60 anni fa, figurati, quindi le cose erano diverse. Le barche si sono evolute, anche la tecnica, eccetera, eccetera. I ragazzini che cominciano con la barca e quelle lì, e con questa possono andare a regatare fino a 15 anni. E le volevo chiedere, com'era il porto quando lei era giovane? E soprattutto, quali sono state le gare più difficili da bambino e da adulto? Ok, il porto era tutto terra. Prima di camminare io gattonavo qua in terra, appena nato mi hanno buttato qua. No, mi ricordo che mi portava mio papà e c'erano sì e no 7-8 barche, no? Dopo c'è stato il boom della vela ed è per questo che c'è stata la richiesta di dover ingrandire il porto, di fare i lavori, di renderlo un po' più funzionale, ecco. Il molo lo hanno allungato addirittura 2 volte, in mezzo non c'era il pontile, qui non c'era il pontile. E qui erano i bagni di Riva del Garda, dove la città, i cittadini di Riva venivano. Io da bambino col papà e la mamma venivo in Fraglia perché ero fragliotto, poi attraversavamo, andavamo a fare il bagno qui, in questa pozzanghera qui. Turismo? Sempre. Turismo è da sempre. Anzi, mi ricordo mio papà, poverino, che non aveva studiato, era un operaio, però era piuttosto filosofo. E mi ricordo che ecco un bel ricordo che ho io, che mi portava dove c'è proprio quel parapetto là con le colonnine, là in cima al molo, che io mi ricordo che ero così piccolo che mettevo fuori la testa e guardavo le onde, no? E mi diceva sempre: Boccia, ricordati che quando gli altri pagano per venire dove sei, guardati intorno perché forse sei in un bel posto. Ed aveva ragione. A parte noi rivani siamo un po' particolari, siamo innamorati del lago e di Riva. Guai toccarci il lago, guai toccarci le barche, guai toccarci la Fraglia, cioè, hai capito? Il turismo c'è sempre stato. Io mi ricordo che i tedeschi venivano alla grande. Forse mi ricordo più le Che prima della guerra, che prima della tedesche. guerra. Il lago per me, vabbè, è la mia vita. L'è stata per mio padre, è stata per me. Il lago Innanzitutto mi hanno insegnato sempre a rispettarlo, perché il lago quando si arrabbia, quando vuole la sua vittima spesso riesce ad averla e quindi bisogna stare attenti ai temporali. Vi spiego, quando c'è molto molto vento, per 2 metri o 3 metri sull'acqua si forma un pulviscolo d'acqua in cui non riesci a respirare. Respiri malissimo, ma dopo qualche minuto non respiri più, perché sei saturo e non riesci, non trovi l'aria, trovi l'acqua e muori annegato o soffocato. Cosa bisogna fare? Mi è venuto un lampo di genio, la barca non era molto grande la mia, l'ho presa io, l'ho rovesciata, sono andato sott'acqua e mi sono attaccato con le mani nella bolla d'aria che si forma sotto la barca. La barca è un guscio, quando è così dentro resta l'aria. E sono andato dentro a respirare. Sono rimasto dentro 20 minuti circa, aspettare che passasse il putiferio, per poi raddrizzare la barca, vuotare l'acqua e rientrare. La cosa che mi ha fatto più paura di tutta questa situazione era che mentre ero sotto in barca, attaccato a traverso, e respiravo così, sentivo battere contro la barca, sentivo boom, boom, boom. Mamma mia, cos'è che batte contro la barca? A un certo punto mi è venuto di dire vado fuori a vedere perché non capivo. E dopo ho capito, sai cos'era? Era il cuore che nella cassa armonica faceva boom, boom, boom, boom, boom. Ma sembravano colpi sulla barca, una cosa impressionante. È la cosa che in quel momento lì ho avuto paura, perché tipo, ho raddrizzato la barca, ho vuotato l'acqua, era rimasto vento forte ancora, ma non quello da sopravvivere. Sono venuto dentro piano e ho trovato là in punta al molo mio papà inginocchiato in terra che piangeva perché pensava che mi fossi annegato. Quando sono venuto qui, lui è corso qui, mi ha messo la mano sulla spalla e in dialetto mi ha detto: adesso vai dove vuoi perché sto tranquillo. Perché ha capito che riuscivo a essere, ho imparato ad essere anche marinaio prima di regatante, quindi riuscire a cavarmela anche in queste situazioni. Altre situazioni pericolose le ho avute in tantissime regate in cui mi sono sempre trovato però per fortuna a dover aiutare qualcuno del mio equipaggio. Quelle sono situazioni che trovi spesso, ad esempio ho fatto una regata in Inghilterra in cui è venuto giù l'albero, spaccato in 4 pezzi e lì ho capito che qualcuno era rimasto sotto e lì nel putiferio onde come alte come quella torretta lì. Onde di 14 metri ha misurato quel giorno lì, in cui non ti preoccupi di niente se non di trovare quello che pensi che si sia fatto male, capito? E ti viene, credimi, ti viene dentro una forza, un po' di ansia, ma ti viene una forza che potresti trovare un leone che lo mangi. Pur di trovare, quando trovi il tuo amico che ti accorgi che si è fatto quasi niente. E che ti dice tranquillo Gianni, non è successo niente, ti tranquillizzi e dopo cominci a ragionare, dici porca miseria, comincia a tremarti un po' le gambe, però dopo, perché in quel momento lì, guarda, riesci a fare quello che vuoi. Un altro coro nel Golfo di Taranto, noi abbiamo urtato una balena, non ci siamo accorti che ci si era criccato l'albero, è venuto giù dopo un'ora, è venuto giù tutto, e era rimasto sotto con le gambe un amico mio, però non ferito. Solo schiacciato e mi ricordo che in mezzo anche lì un putiferio, una roba da matti, e ho preso l'albero con le vele e tutto, me lo sono messo su qui, sono riuscito ad alzarlo per fargli tirare fuori le gambe, vedi ti viene una forza che non sai neanche tu dici, non so se è la forza della disperazione, il momento ti crea una roba che abbiamo dentro tutti, perché non è che ce l'ha Gianni Torboli, tu compreso, tu compreso. Quando trovi un amico che ha bisogno, vedrai che trovi quello che serve per aiutarlo. Mai Bambino. perso la rotta? Oh, Madonna divina. No, convinti di aver fatto tanta strada, ne abbiamo invece tornati indietro. Allora, una volta i navigatori erano dei, io ho sempre detto che erano dei maghi, erano bravissimi perché riuscivano a orientarsi con le stelle, ad orientarsi con le correnti. Sapevano che da mezzogiorno alle 2 la corrente spinge da Malcesine verso riva, allora era inutile andare a Malcesine a riva con una barca lenta perché tornavi indietro. Quindi sapevano tutte queste cose, era facile navigare. avevano il sestante, adesso è diventato un soprammobile, bello da vedere sul mobile perché è una roba di noi, io compreso, il sestante non lo sappiamo più usare, perché abbiamo il GPS, spingi il bottone e ti dice dove sei, coordinate, latitudine, longitudine, ti dice dove sei, quanta acqua c'è, che profondità c'è, se sei sicuro di non andare a sbattere sotto, è più, molto più facile. Io ho sempre detto una cosa, che se per caso, in qualsiasi momento dell'anno, viene un blackout o cascono i satelliti dei GPS, vi è più a casa nessuno, ve lo dico io, girano per gli oceani all'orba. Qui è facile perché hai sempre il riferimento delle rive, vedi la costa, quindi ti vede se... Il mare è tutto grigio, Di notte tutto nero, tranne le notti di luna che sono una cosa meravigliosa perché è buio pesto e vedi tutte le stelle, che quante stelle sono in cielo non ti immagini neanche. La prima che vediamo è quella lì, che è Sirio, che è la prima che si illumina, che è quella più luminosa, non perché è la lampadina più grossa, ma perché è la più vicina a noi, quindi la vediamo meglio. E noi ci orientiamo con la stella polare di solito, con Sirio, che è la prima che vedi a ovest, quindi sai già più o meno dove stai andando. Dopo, ripeto, abbiamo il GPS. Poi vado anche a pesca, mi piace pescare anche. Poi mi sono specializzato in una pesca, che è la pesca del lucio. È una sfida proprio col pesce. Questo pesa 11,2 kg. Il lucio intanto mangia di tutto, però lo deve ammazzare lui. Mangia anche l'oca, anche le foleghe, anche la pantegana. Se tu peschi con la pantegana morta, col topolino morto, con la pesata morta, non la guarda neanche. Se è orizzontale sul fondo, ha già mangiato. Ti puoi passare davanti anche il pandoro, non lo guarda neanche. Se è così, con la testa alta, allora ha fame. Perché? Perché vede le pance bianche dei pesci e parte per andarli a prendere. Arriva in velocità e senti uno strattone, ecco lì devi star fermo e non fermo, immobile, perché è il momento che lui la ammazza, perché ha dei denti terribili. Pensa che peschiamo l'ultimo pezzo della lenza, è di acciaio, perché lui, se sente che ha in bocca una lenza, qualche cosa, ha i denti così taglienti che continua a dire di no con la testa e coi denti taglia anche l'acciaio, devi tirarlo su prima che lo tagli, perché sennò perdi il pesce. Vabbè. E quindi quando senti tirare la seconda volta, vuol dire che c'ha l'amo in bocca, dai un colpo, riesci a ferrarlo da qualche parte e riesci a tirarlo su. Qualche volta vince il pesce, se ne va,